Smart City, la città intelligente. Buonasera, benvenuti a Smart City, sono Federico Pedrocchi. Questa sera, per introdurvi alla puntata, ai temi di questa puntata, ho a che fare con due definizioni inglesi e insomma, vabbè, questa non è una novità, visto che soprattutto nelle vicende tecnologiche molto è affidato a questa lingua. La prima è crowdfunding, forse molti di voi l'hanno già sentita. Crowd vuol dire gente, insomma, people, se vogliamo ritornare all'inglese, e funding vuol dire finanziamento, e è un gergale che rimanda ad una pratica che sta crescendo in molte situazioni, ovvero la possibilità, tipicamente con iniziative che partono dalla rete, di ricevere un finanziamento da parte della gente che è interessata a finanziare appunto un certo progetto. L'altra definizione in inglese invece è quella che riguarda una startup, e di questa startup, di questa nuova azienda, ho qui uno dei soci, Marco Castelletti. Buonasera Castelletti. Buonasera. Allora, la vostra società si chiama Help to Rise, e Help ce lo traduca lei allora. Help to Rise it, appunto, come la traduzione, aiutare a sorgere, a crescere, a realizzare, okay, come noi lo intendiamo. Attraverso il crowdfunding. E allora qui arriviamo al cuore della sua iniziativa. Provi a spiegarcela. Possiamo fare magari un esempio molto concreto. Un gruppo di cittadini può essere interessato a che un giardino nella propria zona venga curato meglio o venga addirittura creato. Voi che cosa fate? Noi ci rivolgiamo all'amministrazione pubblica, al comune, e gli permettiamo di promuovere questi progetti, questo tipo di progetti, cioè progetti utili per migliorare la propria comunità di riferimento. Nell'esempio che faceva, quindi, permetteremmo di presentare a tutti gli utenti del nostro sito, ma in generale a tutti i fruitori di internet in particolare, quindi anche alla comunità, al comune di riferimento, la creazione di questo parco, dove si potrebbe spiegare perché serve, perché è utile, come verrebbe realizzato, i costi che bisognerà sostenere per realizzare questo progetto, il nostro giardino, e caratteristica del crowdfunding, quello che può essere elargito, diciamo, dato in cambio della donazione come ringraziamento, cioè il benefit. Allora aspetti, procediamo un attimo con calma e facciamo questi due passi. Lei, da quello che mi ha detto, vede di più una confluenza tra una proposta del comune e un'esigenza da parte dei cittadini. Beh, oddio, di solito i cittadini sono già sensibili a una possibile proposta di questo genere. Il comune arriva e però racconta, descrive come potrebbe essere questo parco, e allora chiama i cittadini a contribuire. Assolutamente. È così che viene, cioè viene descritto bene il progetto, se ai cittadini piace danno del denaro. Serve ovviamente per la comunità. Certo. Di questi tempi nei quali nelle amministrazioni comunali c'è veramente ben poco, se parliamo di euro, con questo sistema si ottengono dei buoni risultati. Però i cittadini hanno anche in cambio qualcosa quando hanno finanziato e il parco è stato realizzato. È il meccanismo proprio insito del crowdfunding. La donazione permette, uno, quindi di raggiungere e di realizzare un qualcosa che si reputa utile, ma secondo, e questo è il benefit, di ricevere un qualcosa di concreto in cambio. Forse con un esempio si può capire meglio. Io dono 10 euro per la realizzazione del nostro parco e posso avere come benefit il ringraziamento ufficiale e quindi il mio nome posto sulla targa commemorativa del parco. Un piccolino. Oppure 50 euro, in vento ovviamente, oppure 50 euro posso fruire magari di qualche servizio che verrà posto in essere tramite la realizzazione del progetto. Qualche cosa sui mezzi di trasporto, per esempio, nome del genere. La cosa bella è che io me ne sto rendendo conto ogni volta che vado a parlare con le diverse amministrazioni pubbliche, che alla fine le utilità, le necessità, scusi, sono molte e diverse, e le soluzioni sono infinite. Certo. Nel senso che la fantasia dell'uomo è è il limite, e quindi è difficile anche riuscire a fare magari un esempio adesso, sarebbe... No, beh, ma certo, possono essere centinaia gli esempi di questo genere. Senta, il tempo corre e non ne abbiamo più tanto. So che avete già incominciato a prendere, perché siete partiti da pochissimo, dei contatti con alcuni comuni, però voi dite a tutte le amministrazioni pubbliche interessate di farsi avanti, che voi questo servizio, questa piattaforma gliela potete mettere in campo. Dove devono rivolgersi? Allora, si devono prima di tutto collegare al sito www.h2raise.it, ci sono tutte le sezioni, comunque anche dei contatti, più semplicemente mandare una mail alla, se posso permettermi, alla mia indirizzo di posta, che è h2c@h2raise.it. Raise, R-A-I-S-E, va bene. Sì, Raise. E vi trovano. E ovviamente noi ci rivolgiamo direttamente alle amministrazioni pubbliche con un servizio diciamo dedicato, un'assistenza completa lungo tutto il percorso della campagna di raccolta fondi, ma soprattutto, ed è una cosa per noi molto importante, successivamente, cioè daremo modo di render conto di quello che è stato fatto, no? E lo mostreremo sul sito in sezioni dedicate. Grazie Marco Castelletti e buon lavoro. Grazie a voi e altrettanto, arrivederci. La puntata di Smart City di questa sera si chiude qua. Non andiamo in onda domani sera, venerdì, perché c'è uno speciale qui a Radio 24 dedicato all'Emilia e alla ripresa dopo i terremoti. Invece Smart City tornerà lunedì con una puntata dedicata ai rifiuti ospedalieri che si trasformano, possono trasformarsi in risorsa energetica. Buon weekend a tutti.